infanzia difficile quella di Chester Arthur Burnett. Il nome è quello del 21esimo presidente degli Stati Uniti, ma nelle campagne del sud questo poco importa, soprattutto se sei nero. Nasce nella povertà più assoluta da una numerosa famiglia di agricoltori. I genitori si separano quando lui è solo un bambino. La madre, un'invasata religiosa, lo caccia di casa perché non lavora abbastanza duro. Si trasferisce dallo zio Will, che si rivela un sadico sfruttatore. Lo fa lavorare più di un mulo e al minimo sgarro, frustate. Con soli 13 anni scappa dalle grinfie dello zio violento e dopo aver percorso più di 100 km a piedi nudi, trova rifugio presso la casa del padre e finalmente una famiglia normale. Sarà l'incontro casuale con la leggenda del blues Charlie Patton a cambiargli la vita. Diventerà il protetto di Patton e avrà la possibilità di suonare con altri maestri del blues come Robert Johnson, Son House o l'obliquo Blind Willie Johnson. Impari i segreti dell'armonica da suo cognato Sonny Boy Williamson II e alla fine degli anni 30 è fra i primi a esibirsi con armonica al collo e chitarra elettrica. Dopo il servizio militare si trasferisce a West Memphis, nell'Arkansas, dove forma gli House Rockers, una band elettrificata fino ai denti che faceva tremare le pareti dei locali. Diventano in poco tempo la sensazione del posto, non solo per la musica proposta, ma anche e soprattutto per le portentose performance sul palco del leader, che si è nel frattempo battezzato Howlin' Wolf, il lupo ululante. Il motivo del soprannome è incerto. Alcuni sostengono che venga dalla paura. Il nonno gli raccontava storie sui lupi che sarebbero venuti ululando a portarci via i bambini che si comportavano male. Altri assicurano provenga dagli ululati che gli uscivano cercando di imitare il canto iode del suo idolo Jimmy Rogers. In una delle tracotanti esibizioni live vengono notati da Ike Turner, che lo porta a Memphis, quella vera nel Tennessee, per registrare qualcosa con Sam Phillips. Nel luglio del 51, ai Memphis Recording Service, che di lì a poco passeranno a chiamarsi Sun Records, il produttore Sam Phillips dà un importante passo per l'evoluzione del rock. Ha la brillante idea di mettere in primo piano la sezione ritmica, fino ad allora soffocata da pianoforte e fiati. Accompagnato dal batterista Willie Steele, dall'esplosivo Willie Johnson alla chitarra e Ike Turner al piano, Howlin' Wolf registra due brani. Questa bellissima Morning at Midnight, superata da un autentico temazzo. Uno dei primi esempi di blues moderno. How Many More Years? Un classico firmato dalla memorabile voce che sembra provenire dagli inferi di Howlin' Wolf. Au! Yeah. l'aveva imparato a suonare su uno strumento casalingo fatto di un manico di scopa, una corda e un barattolo di lardo. A soli 14 anni si esibisce nei Juke Joint, le bettole gestite dagli afroamericani dove ci si riuniva per bere e ballare. Suona con Robert Johnson, Howlin' Wolf e verso la fine degli anni 30 stabilmente con il grande armonicista Sonny Boy Williamson II. Lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale lo vede partecipare all'invasione dell'isola di Guam occupata dai giapponesi. Con la fine della guerra torna nella sua Jackson, nel Mississippi, a fare il disc jockey e riparare radio. Questa professione sarà decisiva per lo sviluppo del caratteristico sound della sua chitarra, perché gli permette di creare i suoi propri amplificatori e apportare modifiche allo strumento. Il suo stile crudo, aggressivo e senza fronzoli ha creato il nuovo lessico della slide, un autentico punto di riferimento per ogni chitarrista blues, l'impareggiabile Elmore James. I'm gonna get up in the morning, I believe I'll dust my room. Il 5 agosto del 51, durante una session di Sonny Boy Williamson II per l'etichetta locale Trumpet Records, il proprietario Lillian McMurray registra, a insaputa del chitarrista, una versione esplosiva di un brano di Robert Johnson. Il pezzo I Believe I Dust My Broom, conosciuto semplicemente come Dust My Broom, farà conoscere al mondo The King of the Slide Guitar, Elmore James. Dust My Broom! everybody, this is the king of rock and roll, Alan Freed, with a choral rock and roll dance party and the big beat in popular music in America. So gather the gang around for a rockin' good time with our own big rock and roll band starring tenor sax stars Sam the Man Taylor, Big Al Sears, and Freddie Mitchell, plus the smooth vocal stylings of the Modern Airs. And here we go with Right Now, Right Now. È stato il più grande ed efficace evangelista del rock and roll. Il disgiocchi e agitatore radiofonico della gioventù che ha il merito di popolarizzare questo termine. Alan Freed ha una lunga carriera come DJ. Era partito dalla radio dell'università, poi era passato a quella delle forze armate e dopo la guerra si era messo a diffondere le rassicuranti melodie dei Crooners e il jazz delle big band in vari emittenti locali. A Cleveland conosce il personaggio che darà una svolta alla sua vita, Leo Mintz, l'illuminato proprietario del Mintz Record Rendezvous, o se sei di Cleveland, semplicemente il V, il negozio di dischi situato nel cuore del ghetto nero che vendeva i Race Records anche ai bianchi. Mintz, convinto dell'enorme potenzialità del rhythm and blues, convince Freed a cambiare la musica del suo programma e si offre di prestargli i dischi e dargli un aiuto economico. L'11 luglio 1951 nasce il programma notturno The Moondog Rock and Roll Party, introdotto da Moongong Symphony, un brano del musicista di strada newyorkese Louis Thomas Harding, conosciuto come Moondog. Lo show è una vera e propria rivoluzione. Freed usa il linguaggio della strada, uno slang colloquiale per entrare in sintonia con i giovani. Lascia il microfono aperto durante i brani, che accompagna tamburellando le dita sul tavolo, con urla di giubilo e frequenti oh yeah. La musica proposta, su ispirazione di Mintz, si chiamerà Rock and Roll e Freed ne farà un marchio di fabbrica. Nel marzo del 1952, il DJ, sempre sponsorizzato da Mintz, organizza il primo grande concerto di rock and roll, il Moondog Coronation Bowl, un autentico disastro sul piano organizzativo con violenti disordini a causa dell'arrivo di oltre 20.000 ragazzi, circa il triplo della capienza della sala. Il concerto fu annullato, ma una cosa era certa. Ai giovani bianchi piaceva la musica nera. Piaceva il rock and roll. Boom! And we're rocking and rolling! Conscio della ripercussione del programma, il vero Moondog, un geniale e visionario artista di strada perennemente vestito da vichingo, denunciò Freed per l'uso del nome e della canzone che introduceva il suo show. Il processo ebbe enorme ripercussione mediatica e si concluse con una grossa multa per il DJ e il divieto di utilizzare il nome e il brano di Moondog. Lo show passerà a chiamarsi Alan Freed's Rock and Roll Party e continuò ad avere un successo clamoroso. Nel luglio del 57, però, iniziano i primi guai con la giustizia. Nel nuovo programma televisivo di Freed, Big B, l'artista afroamericano Frankie Lyman balla con una ragazza bianca del pubblico. Succede il finimondo. Lo spettacolo viene sospeso e il numero dei detrattori di Freed aumenta a vista d'occhio. Nemmeno un anno dopo, nel maggio del 58, durante un concerto a Boston, il DJ anima il pubblico a divertirsi, nonostante la polizia abbia proibito di spegnere le luci. Viene accusato di incitazione alla rivolta. La borghesia bianca sbotta e aggiunge che istiga i giovani alla violenza ed è colpevole del mescolarsi delle razze. Da questo momento inizierà un lungo calvario e essere sorvegliato speciale dal vigilissimo occhio del grande fratello FBI. È praticamente finita. La Win sospende il programma. Trova ancora qualche emittente disposto a mandarlo in onda, ma nel 59 scoppia lo scandalo Payola, contrazione di Pay, pagare, e Victrola, un vecchio fonografo della RCA, tangenti per la promozione dei dischi. La sua vita diventa un inferno. Si attacca alla bottiglia, pessima compagna di viaggio per chiunque. Vengono poi le accuse di evasione fiscale e la sensazione che lo vogliono far fuori per aver usato troppo. Nel 63, nonostante professi la sua innocenza, per evitare i mali maggiori si dichiara colpevole di 2 dei 99 capi d'accusa. Morirà solo e squattrinato poco dopo, il 20 gennaio del 1965, a soli 43 anni. aveva chiamato Riley perché il padrone della piantagione, il signor O'Reilly, gli aveva trovato una allevatrice per dare alla luce il figlio. Al nome del bambino, Albert Lee King, per vezzo aggiunge una B priva di significato. I genitori si separano quando lui ha solo 3 anni. Da allora vivrà con la madre e la nonna in una capanna nella piantagione. In chiesa trova la sua prima ispirazione con il reverendo Archie Fair, che canta accompagnato dalla chitarra elettrica. Dalla zia, che possiede un grammofono a manovella, scopre i 78 giri di Blind Lemon Jefferson e Lonnie Johnson e si innamora del blues. All'età di 10 anni perde le due figure più importanti. Prima muore la madre a causa del diabete, poi la nonna. Si ritrova solo a vivere nella capanna della piantagione. Per sopravvivere raccoglie cotone e nei weekend canta in chiesa. Un giorno ricompare il padre che se lo porta a Lexington, una piccola città che a lui sembra enorme, dove scopre, oltre il bagno e la luce elettrica, anche la radio. E qui trova il primo grande amore. Charlie Christian, il padre della chitarra elettrica, che con la sua Gibson e S-150 strega il piccolo Riley B. Dopo aver assistito a un linciaggio, decide di scappare. Prende la bicicletta e torna giù nel delta a raccogliere cotone. È un gran lavoratore, ne raccoglie fino a 220 kg al giorno, guadagnando $1.75, un dollaro in più della paga normale. Nei weekend, da una fessura nella parete di un locale del centro, il John Night Spot, vede il pianista Pete Johnson e soprattutto il Conte Bessie con il gigante Jimmy Rushing, che sarà un'influenza fondamentale per il ragazzo. Per accimolare un po' di grana in più, si esibisce all'angolo di Church Street con una ragazza della piantagione, Martha Lee Denton, che diventerà la sua prima moglie. Il repertorio è gospel, ma presto si accorge che la monetina cade quando suona i pezzi laici, così sostituisce Oh Lord con My Baby. Va a Memphis, dove c'è suo cugino Booker White, un bluesman già affermato, che insegna come migliorare la sua tecnica chitarristica, e gli trova pure un lavoro come costruttore di serbatoi per carburante per i distributori di benzina. Un giorno trova il coraggio di presentarsi da Sonny Boy Williamson II, che conduce un celebre programma radiofonico. Gli chiede di suonare un pezzo che sarà un piccolo successo locale. L'armonicista gli trova un locale dove suonare. In cambio gli chiede un jingle per un ricostituente, il Pepticon, un intruglio che oltre puzzare d'alcol, puzza anche di frode. Lo spot ha molto successo, così gli viene affidata una trasmissione tutta sua. Come ogni DJ che si rispetti, si trova un soprannome. Prima si fa chiamare The Beale Street Blues Boy, poi abbreviato in Blues Boys, infine accorciato in BB. Il suo stile inconfondibile, caratterizzato dall'uso del vibrato, ne farà una delle figure di spicco della storia della chitarra elettrica, un vero e proprio ambasciatore del blues. Nel 1951, una cover di questa Trio Crock Blues di Lowell Fulson fa conoscere al mondo uno dei più grandi e leggendari chitarristi del blues moderno, B.B. King. You know I can't find my little baby. Il brano sarà un successo inaspettato, 17 settimane in classifica, delle quali 5 è il numero 1. Lui è B.B. King e questa è la struggente 3 o'clock blues. Now it is 3 o'clock in the morning. Can't even close my eyes. Well, I can't find my baby. Lord, and I can't be satisfied. Lord, I've looked around me. Well, my baby can't be found. now. The men's hang out at. Well, I'm bound to find them. Richard Wayne Pennyman nasce a Macon in Georgia da una famiglia profondamente religiosa. Il padre di giorno era diacono nella chiesa battista, mentre a notte gestiva un honky tonk, il T.P. Neen, celebre per il suo distillato casalingo, il moonshine. Per la sua corporatura esile e soprattutto per quella camminata effeminata dovuta a una gamba più corta dell'altra, veniva deriso dai coetanei. In chiesa, però, si riscattava. Era ammirato da tutti perché la sua straordinaria voce acuta e potente. Ottiene lavoro come venditore di bibite durante i concerti al Macon City Auditorium, dove può vedere tanti dei suoi idoli. In uno di questi concerti, Sister Rosetta Tharpe lo sente cantare e lo invita sul palco, incoraggiandolo a provar fortuna nella musica. Sul finire degli anni 40 si unisce allo spettacolo itinerante del medium e spiritista Dottor Nubilio, un bizzarro personaggio che indossava turbante e mantello colorato, dal quale Pennyman imparerà molto. Si mette poi in viaggio con il Dr. Hudson Medicine Show, un carrozzone ambulante di prodotti di dubbia miracolosità, come il tonico revitalizzante e l'olio di serpente che cura ogni male. Per attirare i clienti si traveste da donna con il nome di Principessa Levon e canta per la prima volta un rhythm and blues, Caledonia di Louis Jordan. If you hear me knocking. Nel 50 canta con l'orchestra di Buster Brown, che lo battezza con il nome per cui verrà ricordato nei secoli dei secoli, Little Richard. In una tournée di spettacoli vaudeville stringe amicizia con il cantante Billy Wright, una piccola star del rhythm and blues conosciuto come il principe del blues. Wright non nasconde la propria omosessualità e insegna a Richard l'importanza del look. Da lui, Little Richard copierà l'uso del trucco, i baffi sottili, i cappelli in stile pompadour e gli abiti da palcoscenico. Manca ancora l'energia caratteristica del suo stile, perché dovrà ancora imbattersi in Escherita, ma questa è un'altra storia. Lui è Little Richard e questa Get Rich Quick. This track. Had 20 grand when I came back. Gonna get rich quick. This is my lucky day. So stick around, baby, and everything will be okay. È stato il progenitore di un particolare stile pianistico che prenderà il suo nome, il Roscoe Rhythm. Uno stile unico, lento e rilassato, che sarà la fonte principale di ispirazione per la nascita in Giamaica dello ska. Nel 1949 vince il primo premio a uno spettacolo amatoriale nella sua Memphis. Il presentatore del programma, Rufus Thomas, lo invita a suonare nel suo show radiofonico. Sarà il suo trampolino di lancio. Ad acchiapparlo al volo è il geniale musicista e cacciatalenti a tempo perso, Ike Turner, che gli fa registrare nel 1951 questa Booted, che sarà un successone da numero uno, ovviamente Rhythm and Blues. I'm gonna take my knife and farà parte del mitico gruppo aperto dei Beale Streeters con Willie Nicks, B.B. King e Bobby Blue Bland. Nel marzo del 1952 registra un brano con il Roscoe Rhythm ben in evidenza, con i suoi caratteristici accenti in levare. Il pezzo sarà uno dei più amati in Giamaica e porrà le fondamenta per la nascita dello ska prima, del rocksteady poi e infine del reggae. Lui è Roscoe Gordon e questa la dinocolata No More Dogging. My mind and let you pay me for a fool. No, pretty baby, that's against the rule. No more dogging, fooling around with you. I'm gonna let you out, baby, that's what I'll have to do. Well, you told me that you love me, no, you told me. I love you, baby, until the day I die. No more dogging. the streets that I made you find. Bet all my money on whiskey, beer, and wine. No more dogging, pulling around with you. Cioccolato bianco e patate per i pannolini. Sam Phillips era stanco che le sue incisioni venissero monetizzate da altre etichette. Così decide di fondarne una propria. La chiamerà Sun Records. Un ex garage di 40 metri quadrati nel 706 di Union Avenue a Memphis. You broke my wheel, what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. La città era un fondamentale crocevia musicale, tappa obbligata per tutti quelli che del sud volevano emigrare al nord. La Sun offre di registrare chiunque, fedele al suo motto: anything, anywhere, anytime. Qui è nato quel sound che verrà chiamato rockabilly, il rock and roll dei bianchi, dall'unione delle parole rock e illybilly. Il padre di questo sound è Sam Phillips, un vero appassionato del lavoro di studio, sperimentatore perpetuo con modifiche del tono della chitarra e cambi di posizione dei microfoni per ottenere eco ed effetti. Da qui passeranno quasi tutti i migliori esponenti del genere: Elvis, Johnny Cash, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis e Roy Orbison. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go cat go, but don't you step on my blue suede shoes. Sam Phillips verrà ricordato anche e soprattutto per la grande profezia. Se potessi trovare un bianco che cantasse con il sentimento di un nero, farei $1,000,000. Se la storia non fosse sempre scritta dai vincitori o modificata da esaltate agiografie, dovremmo riconoscere a Bill Haley la paternità del rock and roll. Haley, un ragazzone timido anche per colpa della cecità in un occhio, è fin da bambino attratto dalla musica. Decide di lasciare la scuola e provare fortuna con Lilly Billy. Negli anni 40 è conosciuto, a dire la verità da pochissimi, con il soprannome di Silver Yodeling Bill Haley. Poi forma The Four Aces of Western Swing, che nel 49 diventano The Saddlemen. La loro prima uscita è del giugno 51 con questa scarica versione di Rocket 88, con un suono più country e una potente sezione ritmica. Il pezzo era in un limbo. I neri ovviamente preferivano la versione originale, mentre per i bianchi non era abbastanza country. Infatti vendette poche migliaia di copie. Però la compagnia discografica si accorse che le poche copie vendute erano acquistate dai giovani. Il gruppo ci riprova l'anno dopo con un pezzo che era piaciuto tantissimo a Haley, il Rock This Joint di Jimmy Preston and the Prestonians. Il brano contiene la solo alla chitarra di Danny Cedrone, che verrà riciclato per Rock Around the Clock. Il disco vende molto bene, soprattutto nell'area di Cleveland, grazie alla diffusione di Alan Freed. Questa è la versione di Bill Haley di Rock This Joint. We're gonna tear down the mailbox, rip up the floor, smash out the windows and knock down the door. We're gonna rock, rock this joint, we're gonna rock, rock this joint, we're gonna rock, rock. rock this joint, we're gonna rock this joint tonight. Well, six times six is 36. I ain't gonna hit for six more licks. We're gonna rock, rock this joint, we're gonna rock, rock this joint, we're gonna rock, rock this joint, we're gonna rock this joint tonight. Rag, side by side, a flying low and a flying wide. We're gonna rock, rock this joint, we're gonna rock, rock this joint, we're gonna rock, rock this joint, we're gonna rock this joint tonight. Jones and a Virginia reel. Just let your feet know how you feel. We're gonna rock, rock this joint, we're gonna rock, rock this joint, we're gonna rock, rock this joint, we're gonna rock this joint tonight. Six is 36. I ain't gonna hit for six more licks. We're gonna rock, rock this joint, we're gonna rock, rock this joint, we're gonna rock, rock this joint, we're gonna rock this joint tonight. Soprannominato Mr. Personality, non solo per il suo hit del 59, ma anche per il suo carisma e bontà d'animo, Lloyd Price suona fin da bambino nella paninoteca della madre, il Beatrice Fish and Fry. Un giorno, Dave Bartholomew, il celebre collaboratore di Fats Domino, entra a prendere uno spuntino e viene catturato dalla voce e dal modo di suonare il piano di quel ragazzo. Dave convince Art Rupp, proprietario della Los Angeles Specialty Records, a mettere sotto contratto Price. Da queste session viene ricavata una canzone presa da una pubblicità di James Ookie Dookie Smith, il primo grande DJ nero di New Orleans, che insisteva «Loudy Miss Cloudy, mangia le torte fatte in casa da tua madre e bevi il caffè di Max Lowe's». Nel 54 viene spedito in Corea. Quando tornerà, troverà il suo posto occupato da Little Richard. Anche il suo autista, Larry Williams, viene lanciato e diventerà famoso da lì a poco. Avrà ancora qualche hit come questa Personality o Stagger Lee. Poche gioie, ma non importava. Nei 70 si mette nel mondo della box con il discusso Don King, con il quale organizza la stramitica Rumble in the Jungle, la sfida di Kinshasa fra Foreman e Ali, con un concerto d'apertura da sogno con James Brown, B.B. King e Miriam Makeba. Molte delle immagini di questo show stanno nell'imperdibile documentario Quando eravamo re. Con la intro al piano di Fats Domino, i sassofoni squillanti e il più puro sound di New Orleans, lui è Lloyd Price e questa Loudy, loudy, loudy, Miss Cloudy. Baby, no, it can't be me. è senza ombra di dubbio il più influente e innovativo suonatore di armonica della storia, uno dei pionieri a elettrificarla. Insomma, un Jimi Hendrix dello strumento. Marion Walter Jacobs lascia presto la scuola e inizia a girovagare di città in città suonando la chitarra e armonica per le strade di New Orleans, Memphis e St. Louis. Si esibisce con bluesmen esperti come Sonny Boy Williamson II, Honey Boy Edwards e Sonny Lan Smith. Nel 1946 a Chicago inizia a usare il nome d'arte di Little Walter. Suona con le star della città, Bill Bronzy, Memphis Slim e Tampa Red. Stufo di spaccarsi i polmoni per non farci soffocare dalle chitarre elettriche, attacca la sua armonica a un microfono per competere allo stesso livello dei chitarristi. Il metodo era già usato dal primo Sonny Boy Williamson, da Sonny Pryor e Walter Orton, ma Little Walter è il primo a usare la distorsione per creare effetti mai sentiti prima. Le prime registrazioni sono del 47 per la Oranel, una piccola etichetta che era sul letro del negozio Radion Records di Maxwell Street. Si unisce poi alla band di Muddy Waters, con il quale continuerà a lavorare anche quando nel 52 lascia il gruppo. In quest'anno forma la sua propria band, con la quale registra Juke, primo e unico strumentale di armonica a raggiungere la vetta delle classifiche, dove ci rimarrà per 8 settimane. Lui è Little Walter e questa la swingante Juke. We'll be right back. Little Willie Littlefield è uno specialista del pianoforte boogie, influenzato da Albert Emmons, Mid Lux Lewis e Pete Johnson. A 16 anni è già un'attrazione dei locali di Houston. Due anni dopo, la sua prima registrazione, Little Willie Boogie, avrà un notevole successo in Texas. Jules Bihari della Modern Records corre a Houston dopo aver sentito parlare di un giovane prodigio al piano che faceva scalpore all'Eldorado Ballroom. Gli organizza in fretta furia un'audizione dalla quale scaturisce It's Midnight, che raggiungerà il numero 3 Rhythm and Blues, rimanendo in classifica per varie settimane. Il suo particolare stile pianistico avrà un'influenza fondamentale su Fats Domino. Nel 1952 si trasferisce alla Federal, per la quale registra un brano dei celebri compositori Jerry Leiber e Mike Stoller. Lo chiamerà erroneamente Casey Lovin, ma si rese conto dell'errore solo 7 anni più tardi, quando Wilbur Harrison, con il titolo di Kansas City, lo farà diventare un classico del blues, riproposto in tutte le salse da vari artisti. Questa è la versione originale di Little Willie Littlefield. K.C. Lovin. I'm going to Kansas City, Kansas City, here I come. I'm going to Kansas City, Kansas City, here I come. They got a crazy way of loving there, and I'm gonna get me some. I'm gonna be standing on the corner, fair, sweet and fine. I'm gonna be standing on the corner, fair, sweet and fine, with my Kansas City baby and a bottle of Kansas City wine. Well, I might take a train, I might take a plane, but if I have to walk, I'm going just the same. To Kansas City, Kansas City, here I come. They got a crazy way of loving there, and I'm gonna get myself hard much. Clothes, leave at the crack of dawn. I'm going to pack my clothes, leave at the crack of dawn. My old lady will be sleeping and she won't know where I'm going. 'Cause if I stay with that woman, I know I'm gonna die. Gotta find a brand new baby, and that's the reason why. I'm gonna do Kansas City, Kansas City, here I come. They got a crazy way of loving there, and I'm gonna get me some. They got a crazy way of loving there, and I'm gonna get me some. Willie Mae Thornton entra nella storia dalla porta posteriore. Infatti, viene ricordata per due brani portati al successo da altri artisti. Ball and Chain nella stellare versione di Janis Joplin e Hound Dog ripulita e accelerata da Elvis. Fin da piccola canta nei cori della chiesa di Montgomery, Alabama. Poi a 14 anni muore sua madre e per guadagnarsi da vivere decide di partire in un tour per tutto il sud con la Hot Harlem Review di Sammy Green, dove si guadagna il soprannome di Nuova Bessie Smith. Vista la intimidatoria mole, i musicisti del gruppo presero a chiamarla Big Mama. Di lei si accorge nel marzo del 53 il grandissimo Johnny Otis, che si offre di suonare la batteria in un pezzo a firma Labor Installer, dove una donna caccia di casa un gigolò. La grintosa voce della cantante si adatta perfettamente a questo brano che verrà ripreso dal re 4 anni dopo. When you see me coming, la Thornton suona poi con Bobby Blue Bland, Junior Parker e Johnny Ace, con il quale si esibisce nel famoso spettacolo di Natale del 54, nel quale Ace muore nel backstage durante una partita alla roulette russa finita male. Lei è Big Mama Thornton e questa è la ringhiosa Hound Dog. You ain't nothing but a hound dog. Been snooping around my door. You ain't nothing but a hound dog. Been snooping around my door. You can wag your tail, but I ain't gonna feed you no more. You told me you was high class, but I can see through. You told me you was high class, but I can see through that. And daddy, I know you ain't no real cool cat. You ain't nothing but a hound dog been snooping around my door. You just old hound dog been snooping around my door. You can wag your tail, stavolta è tutto, gente. Nel ricordarvi che la vostra felicità è anche la mia, vi do appuntamento al prossimo episodio di Cioccolato Bianco, la storia del rock, quella vera.